siamo orgogliosi di dire che siamo riusciti a farla sia nel 2020 che nel 2021 e quindi non abbiamo mai mancato, proprio perché l'idea è la stessa idea per cui nasce la nostra fiera, il fatto di creare una giornata in cui tutti gli appassionati di figurine e card di qualsiasi genere, quindi non solo i calciatori, anche dai Pokémon alla Star Wars a qualsiasi cosa, possano ritrovarci, scambiare le figurine, trovare le figurine mancanti e quant'altro. Il tutto, ed è il nostro scopo come associazione, legandola a iniziative culturali e di solidarietà. E questo è per noi un aspetto altrettanto importante. Bologna ha il vantaggio che è al centro d'Italia, quindi la scelta di, oltre che noi siamo una realtà bolognese, anche perché è di facile raggiungimento praticamente da ovunque, ma soprattutto il mix bellissimo se uno viene al Figucon, che appunto incontri i collezionisti, quelli un po' sociopatici, tipo il sottoscritto che va alla ricerca della figurina o dell'album che gli manca del 1900, con accanto i ragazzini, i bambini che invece cercano di scambiare le figurine e ci danno quel valore che in realtà dovremmo darci tutto, nel senso, senza stare troppo a guardare, tu mi dai Cristiano Ronaldo e io ti do Carlo Nervo non gioca più, però insomma, e quello è il mix delle due cose che è un punto all'occhiello della nostra organizzazione. Tra l'altro il Figucon è una delle pochissime fiere in Italia interamente dedicata alla figurina, quindi è un altro lato aspetto per cui si trovano anche altre cose, ma principalmente gli espositori e i collezionisti vengono gli appassionati del mondo delle figurine. L'iniziativa delle figurine solidali nasce appunto dalla considerazione che un po' tutti quanti nella nostra vita almeno un album di figurine l'abbiamo collezionato, e un po' che comunque la figurina, proprio come ha la sua particolarità, è che dà serenità, è un oggetto simpatico, e quindi perché non utilizzare questo prodotto per dare dei messaggi per sostenere chi sostiene altri, le onlus e le associazioni, ma anche i musei. Noi realizziamo figurine anche a sostegno di alcuni musei, e quindi da lì è nata l'idea. Poi chiaramente noi siamo un'associazione di collezionisti, quindi facciamo tutta tiratura limitata, ma proprio perché accanto al discorso economico c'è il discorso della sensibilizzazione, della promozione delle realtà, quindi ne facciamo, poi l'idea è, ne abbiamo fatte poche, finiscono bene, è tempo di stamparne un'altra.